Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione per questa puntata di A Tempo di Sport, in cui di sportivo c'è poco, di calcistico non c'è nulla, come sapete, di triste c'è tutto, compreso il tempo là fuori. Questa domenica, dal punto di vista calcistico, è in realtà un gigantesco minuto di silenzio, deciso ieri in tutta fretta o con grande tempestività, se preferite, ditemelo voi, non senza peraltro voci discordanti, perché sui social network, anche su Facebook e Twitter, sulle nostre pagine abbiamo registrato varie voci discordanti su questo provvedimento adottato dalla Federcalcio di bloccare, di fermare tutto il pallone, di non far correre sui prati il pallone in questa domenica di pioggia, peraltro al nord. Deciso sull'onda emotiva violenta di una morte vista in diretta TV, è arrivata ieri verso le 17. È chiaro, ieri come oggi le parole sono e saranno difficili, forse sarebbe stato più corretto un lungo spazio bianco, un gigantesco buco, come si dice nel linguaggio radiofonico, come si definisce nel linguaggio radiofonico il silenzio. Invece ne parliamo insieme e saranno, io spero, le vostre voci, soprattutto. 800 24 00 24 è il numero verde, a riempire questo silenzio. Intanto oggi c'è stato sport, uno sport che raramente, forse mai, si è fermato di fronte ad eventi tragici che pure in passato soprattutto si sono verificati con grande frequenza, la Formula 1. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera anche a te, Carlo, buonasera a tutti. Formula 1 non si è fermata mai, no, nemmeno di fronte. Io ricordo, guarda, ieri tornando in macchina, pensavo proprio al weekend della morte di Senna, no? Preceduta, anticipata il sabato delle prove da un altro lutto, quello di Ratzenberger. Sì. Di fermarsi in Formula 1 non si è mai parlato. Sai, purtroppo la Formula 1 è uno sport che per varie ragioni è molto duro, e quindi non concede niente alle emozioni, alle tenerezze, alle debolezze. E per cui effettivamente insomma il famoso discorso, lo sport deve andare avanti, adesso sì, si tratta di vedere. Io francamente trovo, sì, effettivamente, che il discorso di Morosini sia forse stato esagerato, perché se le squadre si avessero messo il lutto al braccio, visto che lo fanno tanto frequentemente, stavolta l'avrebbero fatto con una ragione ben più importante, ben più diretta. Però, come dicono, tra l'altro non è il mio argomento, torniamo invece semmai alla corsa, che è stata comunque molto interessante. Sì, certo, perché si è corso, abbiamo un altro vincitore diverso, tra l'altro Rosberg, che mai aveva vinto in carriera, mai era partito dalla pole in carriera, davanti alle macchine più forti, cioè Button e Hamilton sulle McLaren. E visto che siamo in Venezia, statistiche, ti dirò che non solo per la Mercedes è la prima vittoria dopo 55 anni, dopo 57 anni, con Fangio, che aveva vinto l'ultima corsa del Gran Premio d'Italia appunto con la Mercedes, quindi ufficialmente, diciamo, quando era in corsa la Mercedes col suo nome, e perché è stata presente invece molto con i motori, ovviamente. Sì. E poi che il papà di Rosberg, che è stato campione del mondo nell'82 con la Williams, e tieni presente oltretutto che Nico ha fatto ben 111 Gran Premi, mentre il padre in tutta la sua vita ne ha fatto 114. Sì. Lui ha davanti ancora molte possibilità, evidentemente, ma venendo allo svolgimento della gara, la svolta importante si vede c'è stata ieri pomeriggio, quando nelle prove il cambio di temperatura ha fatto vedere che la Mercedes aveva trovato la soluzione del riscaldamento delle gomme opportuno, diciamo, per avere un risultato, e oggi si è evidentemente ripetuto. Diciamo che è stata una bellissima corsa, soprattutto nella seconda parte. Nella prima parte, ovviamente, con questi cambi gomme francamente io credo che gli spettatori, nonostante la marea di numeri che sono costantemente sullo schermo, hanno qualche difficoltà a capire perché uno è primo, poi improvvisamente sedicesimo, settimo, poi ottavo. Ma insomma, a parte questo, diciamo che gli ultimi 8 giri ci fanno dire che questo campionato è sicuramente un campionato nato bene come spettacolo, perché questa battaglia, soprattutto diciamo gli ultimi 5, e insomma è stata veramente interessante, perché Rosberg, Button, Hamilton, Webber e Vettel, cioè tre campioni del mondo tra l'altro in questo gruppo, e tutti vicinissimi. Diciamo che poi nell'arco della corsa c'è stata la sfortuna di due piloti. Uno è stato Schumacher, che avrebbe potuto fare sicuramente anche lui una buona corsa. Su cui io puntavo, ti dico la verità, in questa settimana che in tutti gli sport è stata segnata dal ritorno dei grandi vecchi, non solo nel calcio, nel basket, eccetera. Abbiamo visto spesso grandi vecchi alla riscossa, ho visto Schumacher il più veloce il venerdì. Comunque tornare a vedere la linea di partenza dalla prima fila con la seconda linea complice alla retrocessione di Hamilton, io 2 euro su Schumacher li avrei messi, poi non l'ho fatto per fortuna. Ma non lo so, io non ho la sensazione che Schumacher sia ancora perfettamente registrato per tutta la gara, anche perché non dimentichiamoci che è un pilota, contrariamente a quello che è Rosberg, che è un regolare, un tranquillo, uno molto ragionatore come del resto Button. Schumi secondo me non ha ancora ripreso completamente la padronanza della situazione nella quale si trova. Ragiona ancora con la logica di quando era la Ferrari e aveva anche una macchina vincente ed era in un trend positivo che durava da anni, però effettivamente, ma già che parliamo di simpatie, diciamo che oggi, se non avesse la sfortuna di perdere 20 secondi ai box per una gomma malfissata, Button probabilmente sarebbe stato di nuovo un protagonista che poteva forse togliere la vittoria a Rosberg, perché ci sono stati due appunto incidenti di questo tipo ai box. Tra l'altro leggevo adesso che la federazione ha comminato una multa di 5.000 euro al team di Schumi perché hanno sbagliato a montare la gomma, e infatti si è dovuto fermare abbastanza presto, quindi senza dare la sensazione, per rispondere anche alle tue parole, di quello che lui avrebbe potuto realmente fare in questa gara. Comunque diciamo, è vero che la fase iniziale è sempre un po' fastidiosa, perché le persone normali, io mi rientro in quella categoria, non riescono a capire esattamente quali sono le strategie delle squadre, cioè cosa vogliono fare eccetera. Bisognerebbe che lo dicessero prima, se no tu lo devi vedere in corso d'opera, e diventa abbastanza complicato riuscirsi a ricordare chi ha fatto 3 sotte, chi ne ha fatte 2, perché, dove era, quando eccetera. Sì, è complicato. Però, guardare i Gran Premi, Mario, è diventato estremamente, ma non da quest'anno, è diventato estremamente difficile guardare i Gran Premi. È vero che almeno quest'anno, in questo inizio, ci stiamo divertendo. Tra l'altro, una classifica mondiale piloti che cambia ogni volta, torna in testa Hamilton con 45 punti davanti a Button 43, ad Alonso 37. A proposito, ovviamente, di Alonso, non è partito, nono è arrivato. Stesso discorso per Massa, che è arrivato al traguardo tredicesimo. Gara in salita per le Ferrari, era nelle. Nei pronostici, nonostante l'ultimo risultato avesse magari illuso qualcuno? No, quello credo di no, perché Alonso siamo tutti d'accordo che è senza dubbio uno dei piloti di vertice. Evidentemente però oggi ci deve essere stata anche una chiamiamola sfortuna, non un errore di strategia, perché in genere si calcola in funzione di dove è il pilota. Cosa succede se perdi che 22-23 secondi per cambiare le gomme? Quanti sono i piloti che lo risorpassano? E quindi bisogna cercare di fermarsi nel momento in cui ne hai pochi dietro, abbastanza vicini. Evidentemente lì c'è stato qualche problemino, ma queste, come dico, queste strategie sono molto difficili da capire per lo spettatore. Però ti diciamo comunque che se vogliamo sotto l'aspetto squisitamente tecnico, la Mercedes ha praticamente raggiunto ormai le prime, la Ferrari non c'è ancora e ha parecchio da lavorare, non può contare su solo Alonso perché purtroppo Massa siamo le solite, in partenza è abbastanza vivace e poi verso la fine scompare. E questo purtroppo per la Ferrari è un problema molto grosso, sì, perché gli altri invece hanno i piloti che a 2-2 portano il risultato. Ecco, tra i due che ricordiamo hanno contribuito a portare il risultato, appunto le due Webber davanti a Vettel, quarto e quinto, che non è ancora recuperato e non sarà facilissimo. La superiorità che avevano sotto, sì, anni, sì, sì, sì. Ma in questo momento le macchine più forti sono le McLaren, ci sono poche discussioni alla luce di questi primi tre gran premi stagionali. Ah, sicuramente. E adesso sicuramente, tra l'altro, tempo per sistemare le cose in questa fase della stagione ce n'è pochino, perché notizia della settimana, il gran premio del Bahrain che insomma era dato per vacillante, è stato confermato, dunque si ricorre subito, e anche lì credo che sarà un weekend complicato per la Ferrari, no? Senza dubbio, purtroppo, a parte che già il team fa delle dichiarazioni, diciamo che tendono a togliere illusioni, quindi questo è già una cosa che la Ferrari non ha quasi mai usato. Io non mi ricordo nel corso della storia della Ferrari e che partissero dicendo no, non ce la facciamo. Però insomma la sostanza è questa, d'altra parte il pilota forte ce l'hanno e devono cercare di capire qual è il particolare fisico che alla Mercedes, l'hanno capito anche loro solo adesso, sì, e poi vedremo se domenica si ripeteranno. Diciamo che per la Ferrari è un altro anno molto difficile questo, perché non sempre si può avere la fortuna di sfruttare l'abilità di Alonso al 100% e di vincere come la gara precedente. Certo, quindi certo. Credo che avranno molto da lavorare, sì, però vedendola diciamo globalmente bisogna ammettere che questo è un campionato, a parte appunto la confusione di box, è un campionato che è campionato al momento molto interessante, molti, sì, molti protagonisti, classifica che cambia ogni volta, anche vincitore di tappa che finora è cambiato ad ogni Gran Premio. Mario, ci sentiamo alla prossima, cioè domenica, grazie. Arrivederci a tutti, saluti. Grazie a Mario Poltronieri. 800 24 00 24, avete sentito, abbiamo aperto con lo sport, quello vero di oggi, naturalmente non è questo l'argomento di questo difficile pomeriggio, cominceremo a parlarne, a rifletterci insieme sul dramma di ieri, su questo dramma che abbiamo visto in diretta televisiva, e questo è un altro argomento molto dibattuto e che ha fatto molta impressione. Su questa decisione tempestiva in maniera incredibile della Federcalcio, che ha mandato a casa gli spettatori di San Siro, ha mandato a casa Genoa e Milan che ieri erano già in campo, ha mandato a casa Inter Udinese che comunque già autonomamente, e poi risentiremo le parole di Pozzo, avevano comunque deciso di non giocare la partita della serata. Insomma, tanti temi che ci ha lasciato questo maledetto sabato del villaggio dello sport. Tanto c'è Marco via SMS 349-238-6666 che mi ricorda che la pioggia c'è qui da me a Milano, mentre in Liguria come sempre c'è il sole. Bravo Marco, grazie per avermelo ricordato e messo addosso anche un po' di invidia. Il calcio fino adesso si era fermato e lo sapete bene, in rarissime occasioni solo la violenza era riuscito a fermare il calcio italiano, anni fa dopo l'uccisione di Spagnolo, tifoso del Genoa, era stato fermato in tempi più recenti dall'omicidio del commissario Raciti nel derby siciliano. Era stato fermato in un sabato di Pasqua di qualche anno fa dalla morte di un papa storico come Giovanni Paolo II. In tutte le altre occasioni, come ha scritto oggi qualcuno, caduto il trapezista, erano comunque entrati in campo i clown. In questa occasione non è successo. 800 24 00 24, numero verde. E questa domenica, come ho detto prima, somiglia dal punto di vista calcistico ad un interminabile lunghissimo minuto di silenzio, no? Perché non mi pare ci siano grandissimi temi da dibattere. È chiaro che adesso siamo tutti impegnati, lo faremo anche noi parlando con medici ed esperti, siamo tutti impegnati a cercare le ragioni di quanto abbiamo visto ieri in diretta televisiva. Forse addirittura ci piacerebbe trovare dei colpevoli per soddisfare le nostre esigenze retributive, ma può essere che di ragioni e di colpevoli non ce ne siano in una tragedia come questa. 800 24 00 24, Laura da Roma, prima ascoltatrice di oggi, saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera Carlo, io volevo dire semplicemente una cosa, io non mi intendo molto di calcio, non so nemmeno che cos'è un fuorigioco, devo dire, non l'ho ancora imparato, però la storia di questo ragazzo mi ha colpito, perché il coraggio di questo giovane che muore così in campo, credo che non bastasse un cuore per gestire tutti i lutti che ha avuto questo ragazzo. Il coraggio ce l'ha avuto vivendo, vivendo per drammatica fatalità troppo poco, perché l'abbiamo letta e imparata oggi la storia di questo ragazzo, che non era un calciatore di primo piano, nonostante avesse anche indossato la maglia della nazionale Under 21, avesse attraversato un club importante come l'Udinese, eccetera, eccetera, però era un viaggiatore del pallone e uno che si portava dietro una vita molto difficile, è rimasto orfano molto presto, poi l'altra tragedia familiare dovuta al suicidio del fratello. Insomma, era un ragazzo che conosceva in profondità il dolore, e questo si aggiunge all'alone di questa tragedia, no? Sì, infatti. Solo due riflessioni. Uno, che forse oltre a vedere i calciatori o comunque gli sportivi come delle macchine, forse bisognerebbe cominciare a guardare anche all'anima di questi calciatori. E poi la seconda cosa, ecco, la storia di questo ragazzo rende ancora più insopportabile tutti i vari campioni che a suon di migliaia di euro fingono dei gol e cedono così alle scommesse, a queste cose qui, ecco, veramente rende tutto molto più insopportabile. Sì, rende tutto molto molto grottesco, questo è vero. Laura, la ringrazio. 800, grazie. 800 24 00 24, numero verde. Oggi è insomma il giorno della tristezza, del cordoglio, delle tante bellissime parole scritte su tutti i giornali, dalle penne più illustri. È il giorno anche un po', se volete, della demagogia, perché questo è inevitabile ed è fatale. È il giorno della, come dicevo prima, anche della ricerca delle ragioni, perché è chiaro che una morte di questo tipo, di un ragazzo di 25 anni, fa a pugni con lo status di questo ragazzo, cioè di chi usa il proprio corpo al massimo delle proprie possibilità come strumento di lavoro, cioè di uno sportivo professionista. Io voglio salutare e ringraziare il professor Gianfranco Parati, ordinario di medicina interna all'Università di Milano, direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale San Luca. Buonasera professore. Oggi è chiaro che è il giorno del perché, no? Poi certo, ci saranno le autopsie, si chiarirà, eccetera. Però è tutto estremamente inspiegabile, ed è estremamente inspiegabile anche la sequenza temporale di questi casi così ravvicinati, da Mwamba, che è stato praticamente un miracolo, no? A quanto si dice, si legge, ma non si fa fatica a capirlo, ai casi invece drammatici nostri, di Bovolenta, che è stato un medagliato olimpico, un grandissimo atleta, a quello di ieri, di Morosini. Certo, sì, c'è sempre una quota di incertezza, di imprevedibilità, anche se si può fare ovviamente molto per prevenire questi episodi, come in parte già si fa anche in Italia, onestamente bisogna ammetterlo, per identificare i soggetti più a rischio. Qui abbiamo di fronte una situazione in cui abbiamo due componenti: una è l'attività sportiva professionistica, che è un'attività che comporta tensione, stress, spinta anche al massimo dell'attività fisica, e questo come tale comunque è un elemento che comporta un rischio, come già lei accennava, quindi sicuramente questo è un elemento che caratterizza gli sportivi professionisti. Dall'altra parte c'è una componente legata a una predisposizione individuale, quindi ci possono essere alterazioni congenite, ci possono essere anomalie di un qualche tipo del cuore, il cuore stesso, che nell'atleta, come tutti sanno, è un po' più grosso, per usare questo termine, cioè ipertrofico, grazie anche all'attività, e come tale quindi è un po' più esposto ad alcuni problemi. Quindi, ma sono difficili da individuare queste anomalie? Ma oddio, o impossibili da individuare? La maggior parte di queste, quelle più evidenti, può essere identificata con delle percentuale di incertezza, la medicina non è una scienza esatta, come tutti sappiamo, è una scienza statistica, quindi non tutto è matematicamente valutabile, però direi il rischio si riduce molto. E l'ultima considerazione che farei è comunque, anche dando spazio a questo margine di incertezza, abbiamo la possibilità di ridurre in ogni caso i rischi di eventi fatali come questo con una buona organizzazione. Qui quel problema che avete sicuramente già discusso dell'avere dei defibrillatori semiautomatici disponibili a bordo campo, che già la possibilità di un intervento entro pochi minuti comunque possono salvare una vita anche quando si verifichi un episodio di questo tipo. Sì, ieri tra l'altro si è molto parlato del ritardo nei soccorsi, all'ingresso all'ambulanza, eccetera, eccetera, per i motivi che conosciamo. Sì, certo. Però si è anche detto che in un caso di quel tipo le speranze erano nulle o quasi. Sì, poi ripeto, non ho assistito direttamente, ma da quello che ho potuto leggere o sentire, comunque l'ambulanza è arrivata entro 4 minuti e mezzo, insomma, quindi tutto sommato in tempo, se vogliamo, per poter salvare la vita nel caso questo fosse stato possibile. Pare che in questo caso non ci sia stata alcuna risposta, quindi l'autopsia ci dirà perché. Sì, senta professore, un'ultima cosa che le chiedo molto rapidamente. Prego. È possibile che questi siano segnali, questi eventi siano segnali di un limite fisico raggiunto? Ma sicuramente bisogna stare attenti a non andare oltre un limite e poi bisogna stare attenti anche a non fare cose non lineari, ecco, per superare questo limite. Lei sa cosa intendo, no? Sì, purtroppo certo. Nel mondo professionistico vengono usate anche sostanze per facilitare delle performance elevate e questo chiaramente aumenta il rischio. Beh, questo è evidente. Questo non sappiamo cosa è successo qui, magari non è il caso, ma sono tutte considerazioni generali per chi fa sport, come deve essere non esagerare, non fare cose che mettono a rischio la propria salute per cercare una prestazione. Certo, una prestazione non umana. Grazie professore, alla grazie prossima. Grazie a lei, grazie. Buonasera. Grazie al professor Gianfranco Parati. E eccoci sempre a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in questa domenica di silenzio. Ci vuole, come al solito, dalle nostre parti, ed è qualcosa che non finisce mai di sorprendermi, una tragedia per fare qualcosa. Ha parlato Abete, stenderemo l'uso dei defibrillatori sui campi di calcio, ha detto Abete, perché i casi recenti di Poerta, di Fuè, di Muamba, essendo accaduti all'estero, non avevano fatto sorgere questo pensiero. Comunque, sempre Abete sulla decisione di sospendere invece di non giocare oggi, benedice: non c'è stato alcun dubbio, anche se qualcuno è stato avvertito dopo, ha aggiunto Abete riferendosi al presidente della Lega Beretta, che era irraggiungibile. Anche se ci fossero state opinioni diverse, avremmo scelto ugualmente lo stop. Queste le parole del presidente federale. Io ho tanti ascoltatori e mi fa piacere, perché è bello tenersi compagnia e riempire questo che ritengo poteva essere un lungo silenzio anche radiofonico con le vostre voci. Giovanni da Milano, Roberto da Tortona, Carlo da Bologna. Giovanni, buonasera. Buonasera, io dica. Chiamo dalla provincia di Milano, sì. E chiamo perché sono triste, perché sì. Seguo lo sport, perché mi piace lo sport, mi piacciono le persone sportive che lo seguono e che sono corrette. Però non riesco a capire perché ogni volta che debba succedere una disgrazia, una tragedia, bisogna sempre cercare un capo espiatorio, quando è evidente che questa volta non c'è. Nel senso, evidente è la cosa più probabile. Giovanni, lei ha ragione, cioè oggi siamo alla ricerca delle ragioni, no? Siamo alla ricerca quasi di un colpevole, fosse anche quel vigile urbano che aveva parcheggiato dove non doveva parcheggiare. No, lo so, ma siamo Giovanni, lo so, siamo alla ricerca di qualcosa che ci faccia capire un fatto che non riusciamo ad accettare, cioè come la morte in campo, in diretta televisiva, documentata da mille immagini. Anche questo è un altro aspetto di cui parleremo, anche perché ad esempio Ilaria mi chiede un commento sulle foto di Morosini agonizzante sulle prime pagine del Piccolo e del Tempo. Queste foto le troviamo non solo sulle prime pagine del Piccolo e del Tempo, ma su tutti i giornali, e sono 2 giorni che le vediamo in televisione, quindi è così, abbiamo visto la morte in diretta TV. Dica Giovanni. Sono veramente triste, non dico più niente, non so cosa dire, era tutto qua. Grazie. Ma d'altra parte è così, è un lungo minuto di silenzio, non è che ci sono moltissime parole, neanche moltissime, secondo me, così, moltissima dietrologia che può essere fatta, perché adesso siamo, come detto, alla ricerca delle ragioni, ragioni che al momento non ci sono, e a quanto pare una tragica fatalità, un dramma pazzesco. Roberto da Tortona, buonasera. Sì, buonasera signor Genta. Anch'io sono molto triste oggi e sinceramente un perché non me lo sono chiesto, anche perché è difficile da trovarlo, di questa vicenda, se non nella storia di quel ragazzo lì che è stata una vita martoriata, diciamo, da disgrazie. Forse questo era il suo destino. Sì, forse così. Però volevo dire una cosa, con tutti i soldi che si spendono nel calcio, è possibile che non ci sia un primo soccorso adiacente allo stadio, nei pressi dello stadio, per questo che c'è bisogno dell'ambulanza, andare all'ospedale. Ma guardi, io le leggo questa dichiarazione del presidente di oggi, del presidente della Federazione Medico Sportiva Maurizio Casasco, che ha detto: abbiamo elaborato e brevettato da un anno un pronto soccorso sportivo per la gestione dell'emergenza in campo e siamo pronti a metterlo in pratica. Siamo a disposizione del ministro Gnudi per ogni chiarimento. E non posso che ripetere quanto ho detto prima, dalle nostre parti, ma siamo fatti così, serve qualcosa di violentemente tragico per poi ragionarci sopra. Carlo Bologna, buonasera. Buonasera, innanzitutto una preghiera per questo ragazzo, perché la vita che ha avuto e la morte che ha fatto meritano innanzitutto una preghiera. Sì. E poi un auspicio, che quello che è successo serva veramente a cambiare la mentalità di chi opera nello sport, di non far sì che debbano esserci altri morti, per far sì che un'ambulanza entri di corsa, per far sì che i controlli siano fatti in modo più accurato. Ma guardi, altrimenti... Carlo, però i controlli in realtà sono molto accurati, cioè tutti ci dicono in questi giorni, ci spiegano, ci mostrano in televisione, insomma, l'idoneità agonistica, il monitoraggio dei giocatori, soprattutto dalle nostre parti. Il protocollo italiano sulla salute dei giocatori è comunque seguito, è elemento di studio, è esempio in tutto il mondo, quindi questo tipo di prevenzione esiste, si può migliorare certamente. Avete detto estenderemo l'uso dei defibrillatori, c'è questa ipotesi del pronto soccorso sportivo che è già pronto da un anno ma non si è ancora visto e magari lo vedremo dopo questa tragedia, non lo so, però la sensazione resta quella di un destino tragico, forse già scritto, come ha detto l'ascoltatore di prima. Io saluto e ringrazio invece Enrico Currò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao Carlo. Ciao. Senti, ieri era San Siro, che cosa hai visto, cosa hai sentito? Ma io ho visto un senso molto autentico di sgomento da parte dei calciatori. Sì. Questo è stato molto visibile e poi l'ho anche ulteriormente approfondito nelle telefonate che ho fatto nel corso della giornata. I sì. giocatori del Milan e del Genoa sono rimasti profondamente scossi, ma non è un modo di dire, è il fatto che indubbiamente rispetto a tante altre tragedie del passato più o meno recente, questa ha avuto una caratteristica, cioè quella della cosiddetta morte indiretta, che ha sicuramente, chiunque abbia visto quelle immagini, e a maggior ragione un calciatore, non può non esserne rimasto colpito. A questo proposito mi permetto di segnalarvi, oggi c'è un bellissimo pezzo sull'argomento di Bruno Bartolozzi sul Corriere dello Sport, che isola proprio anche dal punto di vista puramente filosofico, diciamo così, questo aspetto, cioè il fatto che tutti noi, ma ripeto a maggior ragione un atleta, ci siamo trovati di fronte a queste immagini a capire che una persona stava morendo davanti a noi, e questa cosa sicuramente ha provocato una reazione emotiva che è giustificata, è una reazione direi molto comprensibile, una reazione spontanea. Questo è quello che ho visto allo stadio, sì. Tanto è vero che a San Siro c'è stato un primo momento quando lo speaker ha comunicato la notizia che la partita era sospesa, in cui ci sono stati dei fischi, ma semplicemente perché non era stato capito il motivo. Seedorf e Yepes, con un gesto di grande spontaneità, hanno applaudito invitando il pubblico ad applaudire, e il pubblico immediatamente ha percepito con l'intuito, sì, delle folle, senza che neanche forse davvero, sì, tutti fossero informati. Anche perché poi paradossalmente chi era lì, quelle immagini che hanno provocato tutto questo non le aveva esatto, potute vedere, esatto, per ragioni temporali. Enrico Curro, inviato di Repubblica, tu hai detto ieri, per l'appunto, questo era il clima di San Siro, dunque qualche fischio dovuto all'incomprensione e poi gli applausi e poi il mesto scemare della gente che era già allo stadio. Mi pare però, leggendo i commenti sui social network, che non tutti siano così d'accordo su questo provvedimento così tempestivamente preso e secondo me in maniera opportuna di fermare la giostra. Guarda, io ci ho riflettuto molto su questa cosa, perché ovviamente l'impulso di fronte a un mondo del calcio e a un governo del calcio, non alludo alla federazione ma alludo al governo del calcio nel suo complesso, che ha spesso dimostrato di essere più attento alle esigenze del business che non a quelle dell'etica o comunque dello sport in quanto tale. Devo dire che il riflesso che si vede sui social network è abbastanza giustificato, cioè come si fa a credere alla spontaneità di un provvedimento da parte di un mondo, quello del calcio, che pensa molto spesso a mettere agli orari delle partite in televisione più che a tutto il resto. È chiaro che se uno vuole fare della dietrologia, il calcio italiano offre sempre mille spunti per farlo, però nel caso specifico io mi sento, dopo aver analizzato e essermi interrogato moltissimo su questo provvedimento, mi sento di dire che anche proprio la dinamica il modo in cui questo provvedimento è stato preso, mi sento di dire che questa volta c'è stata invece una scelta abbastanza coraggiosa, magari dettata dalle emotività, indubbiamente, però molto coraggiosa, secondo me molto opportuna, una scelta di maturità, una scelta che ha preteso, ha voluto per una volta mettere in testa altri valori rispetto a quelli del business, una scelta che probabilmente si presta, come tutte le scelte coraggiose, a essere anche criticata, ma una scelta che indica anche una strada, cioè la strada della maturità, alla quale forse tutti, a cominciare da noi giornalisti, non siamo pronti, perché siamo sempre pronti a leggere altro, certo, a vedere altro. Per una volta è stata indicata, direi, una strada giusta, e credo anche che sia giusto seguirla e dare credito a chi l'ha presa. Poi si possono criticare tante altre cose, per esempio io non ho trovato bellissimo il fatto che il Milan e il Genoa si siano allenati sul campo nel quale non avevano giocato la partita. Credo che questa sia stata una cosa che si sarebbe potuta anche evitare, tutto sommato, però devo dire che l'atteggiamento dei calciatori, la loro partecipazione autentica a questa cosa, secondo me sgombra il campo da ogni dietrologia. Grazie Enrico. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie ad Enrico Curro. Antonio da Piacenza, sempre numero verde 800 24 00 24. Dica Antonio. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Intanto io in realtà sono a Piacenza in autostrada, ma non sono di Piacenza. Sì. Io chiamo perché ritengo che la riflessione fatta attorno a tutto quello che è successo sia interessante, informativamente pregnante, ma che non c'entri un problema molto importante oggi. Io sono un cardiologo e lavoro col Dipartimento della Medicina dello Sport nell'area di Milano. Dire esattamente il comune, perché quello che sto per dire, vorrei fosse una denuncia in qualche modo. Mi è capitato spesso di visitare dei ragazzi giovani, 10, 12, 13 anni, che presentano dal punto di vista cardiologico delle criticità, non tanto perché diciamo si evidenziano problemi di gestione dello stress, ma diciamo è chiaro che alcune diciamo conformazioni ventricolari eccetera possono anche se in modo residuale presentare qualche problema nel tempo. Sì. Ecco, cosa succede in questi casi? Succede che io diciamo in prima battuta dico al medico dello sport che non intendo lasciare l'idoneità per l'attività agonistica, e si presentano le famiglie, spesso accompagnate dal dirigente della società, perché magari il ragazzino ha talento, perché magari è di ipotesi residuale. Allora io dico, ecco, proprio perché a questi livelli il defibrillatore non c'è, proprio perché il medico dello sport spesso è un assistente del medico diciamo della società alle prime armi, qui i problemi potrebbero essere gravi nel momento in cui invece una qualche patologia si presentasse in atto. Allora penso che sia un'operazione sociale di sensibilizzazione e di informazione che bisogna fare, perché i controlli a livelli inferiori ci sono, ma sono spot, una volta all'anno vediamo questi ragazzini in coda, 15-16 ragazzini in un pomeriggio, sì, che salgono su, fanno un po' di step e cioè, gli colleghiamo gli strumenti per capire cosa succede. Ecco. Sì. Allora le famiglie devono essere i primi e le società a seguire, a pretendere che ci siano diciamo situazioni di tranquillità. Certo. Chiedere ad un medico di dare il via libera quando questo via libera è rischioso per il proprio figlio, non credo sia... No, assolutamente, diciamo, è assolutamente da evitare, ma questo è evidente. Qui stiamo parlando di controlli di base, di controlli su ragazzi molto giovani, ma lì non ci devono essere santi che tengono, né pressioni che tengono. Se un ragazzo ha dei problemi, questi problemi vanno approfonditi, e questo sta nella logica delle cose, nella sensibilità dei genitori, nel semplice buonsenso, questo è il mio pensiero. Fabio da Grosseto, dica. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, anch'io non sono di Grosseto, sono in viaggio, sono di Milano. È lo stesso. Io faccio il cardiologo e devo dire che in questi giorni ho sentito purtroppo tante inesattezze. L'ultima forse è quella di Diabete, del presidente della Federcalcio, perché qui il problema non è di estendere l'uso dei defibrillatori in campo, forse lui voleva dire la disponibilità, in realtà l'uso presuppone un arresto cardiaco accertato, il problema è che ci sia del personale che li sa utilizzare, perché ieri è stato detto che il defibrillatore non ha mai rilevato un ritmo defibrillabile, che vuol dire che è stato impiegato un defibrillatore semiautomatico e che nessuno stava monitorando il ritmo di presentazione dell'atleta. Molto banalmente, senza pensare a soluzioni avveniristiche, cliniche mobili tipo quelle della MotoGP, ma un'equipe fatta da due infermieri professionali di rianimazione, un anestesista rianimatore, il cardiologo ci può essere o non essere, è quello che serve in questi casi, perché un'equipe fatta in questa maniera qui è in grado di iniziare una rianimazione cardiopolmonare avanzata, quindi anche con l'intubazione dell'atleta sul campo, nel giro di pochi secondi. Sì. Purtroppo questo ieri probabilmente non è accaduto, anche se la rianimazione cardiopolmonare di base è stata iniziata immediatamente. Il fatto che l'atleta non si sia ripreso fa pensare che probabilmente non era soltanto un problema elettrico, diciamo, aritmico puro. C'erano anche altri problemi che verranno comunque chiariti è possibile, anche se possibile. L'altra cosa da dire molto importante è che negli atleti di elite i controlli, la nostra legislazione fa controlli con esami di primo e di secondo livello che sono molto accurati. No, quindi, certo, quanto stavamo dicendo prima. Questi sono fuori normali. Certo, appunto, quanto stavamo dicendo prima, cioè non questi controlli in Italia, i protocolli italiani di controllo sono di leggo e so di presi ad esempio in tutto il mondo, quindi non penso ci siano state negligenze in questo senso, mi rifiuto di pensare, anzi sono certo che non ce ne siano state, stiamo parlando di atleti professionisti, quindi. Questo è certo, quindi, nei congressi internazionali la nostra legislazione, i nostri protocolli di screening sono portati ad esempio, esatto, perché i numeri di questi eventi sulla quantità di atleti di elite che praticano lo sport agonistico nel nostro paese sono più bassi che negli altri paesi. Sì. Io la ringrazio, grazie, ringrazio. Fortunato da Belluno, dica. Pronto? Pronto? Dica. Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, probabilmente dirò qualcosa di impopolare. Fa niente. Pronto? Sì, fa niente, lo dica. Allora, dicevo, mi pare che non siamo nuovi a queste cose, no? In che senso? Il fatto che lui è morto facendo il suo lavoro, come tanti operai comunque muoiono tutti i giorni, ma non ci permettiamo comunque di interrompere una giornata di lavoro per questo. Questo è un fatto. L'altro aspetto che poi sostanzialmente non impressiona, tanto ormai siamo verso la fine della stagione, quindi qualche giornata, qualche settimana in più di riposo alle squadre credo che sia... No, così è contrario. No, no, non credo. Questo... Non ho apprezzato questa interruzione, anzi, no. A qualche squadra mi incavolerei fortemente, francamente. Io no, l'ho già detto prima, però non è vero che, semplicemente non è vero che ci saranno giornate in più di riposo, perché anzi si giocherà domenica prossima, poi il 25 aprile, quando non era previsto, e quindi aumento di impegni e accavalarsi di impegni molto ravvicinati nella fase più delicata della stagione. Saluto e ringrazio invece Maurizio Crosetti, penna importante di Repubblica, che oggi ha scritto un pezzo meraviglioso. Ciao Maurizio, grazie. Buongiorno, grazie a voi, ciao. Ci sono notizie e tragedie che diventano simboli e quasi sempre dipende dalla forza drammatica delle immagini. Chi muore nello sport, talvolta di sport, irrompe nelle case dimostrando che pure un luogo di assoluta vitalità e gioia, anche quel terribile sacrificio di territorio di sacrificio e sogni, può ospitare la crudele fantasia del male. Abbiamo preso un pugno in faccia alle 5 di ieri sera, Maurizio. E tempestivamente è stato deciso, come mai era successo in Italia, questa tempestività io in Italia non l'avevo mai vista, tempestivamente è stato deciso di non giocare a calcio. Sì, intanto non si poteva minimamente pensare di fare una cosa diversa con i giocatori dell'Udinese in lacrime, pensando al loro amico, al loro compagno, in attesa di giocare contro l'Inter, ma questo vale per esempio anche per giocatori che in apparenza potevano centrare poco con lui. Penso a Marco Motta del Catania, che ha percorso sin dalle giovanili tutta la storia, tutta l'avventura agonistica, molto simile dal debutto in Serie A, Udine, poi l'Under 21, e quanti altri che lo conoscevano non erano in grado per questioni emotive. Ma al di là di tutto, anche noi che non lo conoscevamo, anche molti dei suoi colleghi che non lo conoscevano direttamente, non potevano andare in campo. Non è vero che lo spettacolo continua ad ogni costo, troppe volte è continuato ad ogni costo, secondo me. Sì, questo è vero, anche se poi c'è chi, come l'ascoltatore di prima, rileva ma se muore un operaio non è che si ferma tutto il mondo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa mi sembra demagogia. Ogni volta io stesso ho scritto che non era giusto giocare ad ogni costo solo perché non c'è una data di calendario per il recupero, solo perché sono stati venduti gli spazi pubblicitari, solo perché le televisioni, che pure spendono un sacco di soldi, hanno bisogno di queste dirette. Insomma, ci sono sempre mille ragioni per non fare le cose, ma spesso c'è la mille e una che invece è l'unica sacrosanta per farle. È raro che si abbia la tempestività e anche il coraggio, certo, di scegliere quell'una e non le altre mille, e per una volta bisogna dire bravi ai dirigenti della Federcalcio, ai giocatori, che hanno, ai presidenti, perché chiaramente dovevano essere tutti d'accordo per fare questo, le televisioni, anche a noi giornalisti. Mi pare che sia davvero unanime il giudizio sulla bontà di questa scelta. Non glielo diciamo mai, questa volta se lo meritano, tu dici. Finora il calcio era stato fermato, lo sai meglio di me, solo dalla violenza nei casi spagnoli di Raciti, dalla morte di un papa storico come Giovanni Paolo II, con ritardo il giorno dopo per l'attentato delle Torri Gemelle in Champions League. È stato fatto in questo caso, mi pare, Maurizio, un gigantesco minuto di silenzio, perché non mi pare ci siano troppe tavole rotonde da imbandire, anche se oggi per questa esigenza retributiva che abbiamo cerchiamo una ragione, no? E cerchiamo di capire se era possibile evitarlo, e cerchiamo di capire se sono stati soccorsi tardivi e quell'auto dei vigili, eccetera. Cerchiamo di capire tutto questo, ma mi pare che non ci siano grosse tavole rotonde da imbandire di fronte a una drammatica fatalità. Cerchiamo sempre di capire che senso abbia la nostra vita per prenderla alta, perché così è, questi episodi ci mettono di fronte alle domande grosse, no? Sul senso delle cose, non soltanto dei gesti della quotidianità. Quindi che senso abbia la vita, il perché della morte, sono le domande che tutti gli uomini da quando esiste l'uomo, appunto, si pongono, e alle quali in realtà non trovano risposta. Anche in questo caso, scendendo più nel particolare, sarà difficile trovarla quella risposta, perché una morte elettrica del cuore, con un battito che non è ripartito mai, o forse un aneurisma cerebrale, perché ci sono anche specialisti in neurologia che indicherebbero, poi solo l'autopsia potrà dare la risposta, certo, indicherebbero in quest'altra eventualità la morte, e lì in questo caso assolutamente impossibile da evitare, inevitabile di Morosini, ma in questo caso davvero tutto il resto è superfluo, anche se, come è giusto, bisognerà capire com'è possibile che in uno stadio un'ambulanza non arrivi perché c'è una macchina dei vigili urbani parcheggiata di fronte. Queste sono cose davvero allucinanti, inaccettabili. E poi se questo dibattito può portare, come sembra, leggendo anche le agenzie e le reazioni di oggi, a una scelta di sicurezza maggiore, no, per la presenza dei defibrillatori. Ieri c'era peraltro il defibrillatore, certo, non l'ha salvato il defibrillatore Morosini, ma tante altre volte, ma penso anche allo sport dei nostri ragazzi, alle palestre, ai campi, ai campetti di periferie, ai palazzetti, ecco, lì sì, con poche migliaia di euro, certo, si potrebbero mettere i defibrillatori. No, se questo può portare, guarda, se questo può portare maggiore scrupolo nei controlli di base, allora questo può essere un altro grande passo, perché sì, come ci ricordava un cardiologo di prima, spesso dice, ma sembra ci sia qualche problemino in questo ragazzo, arrivano i dirigenti, i genitori, eccetera, eccetera, l'idoneità viene concessa. Se questo dramma può portare a maggiore scrupolo in questo tipo di controlli, allora forse questo è un giorno importante, è un giorno importante, un giorno da ricordare forse. Maurizio, sì, ti ringrazio. Devo grazie chiudere. Buon grazie. Lavoro, un abbraccio. Ma può darsi che si sia arrivati all'estremo delle possibilità fisiche anche di atleti che sono ormai dei super atleti, come quelli che calcano i campi in tutti gli sport oggi. Certamente chi fa lo sportivo professionista è diverso da chi fa lo sport, da chi va a correre al parco per ragioni di salute. Lo sportivo della domenica, lo sportivo che si tiene in forma, è certamente una persona sana. Gli sportivi professionisti, questo è un altro tema che mi rimbalza nella testa, sono davvero persone sane o stanno esagerando? Complici gli impegni così ravvicinati, così fitti, così intensi, sia fisicamente che emotivamente. Non lo so, sono domande che rimangono lì. Ascoltatori, Laura da Roma, Andrea da Milano. Laura, buonasera. Buonasera Carlo. Io per motivi assolutamente occasionali ieri mi trovavo in compagnia dei amici allo stadio di Pescara perché avevo voglia di vedere il Pescara di Zeman. Sì. Purtroppo abbiamo visto un tutt'altro tipo di spettacolo, che peraltro ci è stato abbastanza chiaro dalle scene di disperazione, sì, di compagni, quello che stava succedendo. Sì. Proprio per questo trovo a maggior ragione giusto la decisione di sospendere questo campionato per questa domenica. Sì. Se mi permette, trovo molto meno comprensibile tutto questo ripetere le immagini di questo povero ragazzo, sì, con primi piani a 24 ore da quello che è successo, con foto gigantesche su giornali abbastanza esaustive, perché vede, questo io il giornale magari non lo compro, il canale lo cambio, ma esiste una parola che si chiama rispetto, anche, sì, se questo ragazzo ormai è da un'altra parte, il rispetto gli si deve a questo ragazzo. E purtroppo, mi permetta di dirlo, molti suoi colleghi, a differenza sua, che si sta un'altra volta distinguendo per la, pare una trasmissione, oserei chiamarla nobile, non lo stanno adoperando. No, ma guardi, al di là della nobiltà, Laura, sappiamo bene no, che no. ci sono esigenze di cronaca che erano presenti ieri e che ci trasmettono immagini di estrema violenza. Questo è un altro argomento di dibattito anche sui giornali di oggi, perché prima abbiamo sentito Enrico Curò che ha citato Bartolozzi su Corriere dello Sport, ma ne scrivono un po' tutti e abbiamo intenzione di parlarne anche noi. Ne scrive ad esempio Beppe Severgnini su Corriere della Sera, video, replay, fotosequenze, reality di un dramma, scrive. Oggi a 24 ore di distanza, nonostante i rulli informativi cui ormai siamo abituati, questo rispetto lo vorrei anch'io insieme a lei, Laura. Andrea da Milano. Salve. Dica. Cercherò di essere breve e abbastanza chiaro. Sì. A me ha stupito molto, ho sentito la trasmissione all'inizio, ha stupito molto questa festività, come penso di aver capito, ha stupito anche lei, a qualche ascoltatore, della Federcalcio di interrompere immediatamente la giornata sportiva. E allora io dico una cosa, se uno è in un certo modo da... L'ha stupita in positivo o in negativo? No, in negativo, nel senso che secondo me è stato un gran colpo di genio di queste persone che hanno sfruttato purtroppo questo ragazzo, è servito in questo momento al calcio italiano, sostanzialmente, che passa un momento molto difficile. Quindi lei io dico, siccome questa governance dura ma da 20 al di là, anni, ma al di là di questo e del pensar male in ogni caso che si fa peccato, non si sbaglia quasi mai, come diceva qualcuno di importante, la decisione la trova corretta oppure no? Anche se tutto sommato mi sembra un argomento di abbastanza di confine. No, io la trovo correttissima, però ci sono state tante altre occasioni e non si è fatto nulla di questo senso. Beh, tante altre magari no. Beh, tante altre occasioni, non di questa gravità, di questa drammaticità, però ci sono stati altri buoni motivi, diciamo, per poter fermarsi e riflettere, ecco, questo che volevo tipo? Dire. Beh, adesso non me ne vengono, sono stati nemmeno tanti, cioè una morte in campo l'avevamo vista negli anni 70 con Renato Curi e, per l'evento drammatico, esatto, della morte, io esatto. Parlo anche di altri eventi sostanzialmente, anche gravi, tipo episodi di razzismo, episodi gravissimi, sì. Anche alla luce di tutto questo calcio scommesse, per esempio, perché sì. Non ci si è fermati. Andrea, però allora a quel punto non si gioca più, perché a quel punto non si gioca più. No, a quel punto arrivare a questo punto. A quel punto non si gioca più, perché qui se stiamo discutendo di un fatto drammatico che come detto ci ha colpito come una mazzata sui denti ieri pomeriggio alle 5, che tutti abbiamo visto in diretta televisiva e che insomma ha colpito tutti, allora stiamo parlando di questo fatto. Il calcio italiano, come detto, si era fermato per violenza, chiuso per violenza in occasione del fatto di Spagnolo e di quello di Raciti e basta. Se per ogni problema del calcio allora fermiamo il campionato, a quel punto non si gioca più, che può anche essere una soluzione. Dice allora questi scommettono, questi barano, questi imbrogliano, questi litigano, ci possono essere un miliardo di buone o semi buone ragioni per non giocare più a pallone, comprano gli arbitri, chiamano gli arbitri, telefonano agli arbitri, ce ne sono mille di buone ragioni. Io l'ho trovata invece una decisione, io non voglio pensare male in questo caso, una decisione tempestiva, saggia, che mi unisco a Maurizio Crosetti, merita una volta tanto un applauso a chi l'ha presa. A tempo di sport. Abbiamo usato forse impropriamente un concetto giuridico che è quello di esigenza retributiva, lo si dice della pena in legge, cioè la necessità di essere retribuiti di una pena sofferta, in questo caso non di un delitto ma di una, come detto, di una morte indiretta. Forse è inappropriato, ma ve lo spiego così, insomma. A proposito delle ragioni che oggi si ricercano e che magari non ci sono, di quanto abbiamo visto e stiamo continuando a vedere forse in maniera inopportuna sugli schermi televisivi. Mirko da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei. Ma io volevo dire che sono invece contrarissimo a fermare tutti i campionati. Per una ragione molto semplice. In Italia muoiono circa 1000 persone all'anno per incidenti sul lavoro, però non si sono mai fermati gli uffici, non si sono mai fermate le fabbriche, si è sempre andato avanti. Io dico dispiace un ragazzo giovane, per l'amor di Dio, come può dispiacere per un ragazzo che muore in motorino? E nemmeno. Perché l'operaio che cade dall'impalcatura non ci fermiamo mai? E un ragazzo che gioca in Serie B dobbiamo fermarsi tutti. Mirko, attenzione, a prescindere dal fatto che sia un ragazzo che giocava in Serie B, mi sembra che il circo per un giorno possa chiudere senza far entrare i clown. Perché le fabbriche mai? Queste sono altre, non sono luoghi che dovrebbero essere deputati al divertimento, quindi non... Ma la morte è uguale, anzi a maggior ragione. Beh, no, mi sembra. Non lavora in sicurezza, cade e si ammazza. Ah no, questo è un altro discorso. Se non lavora in sicurezza, cade e si ammazza, allora questo è un altro filone di indagine. Io credo che si debba fare. Non è detto che passi inosservato. Io dico soltanto che il calcio è il nostro divertimento domenicale. Io oggi non. Ma come me, credo molti, non si sarebbero divertiti nell'accendere la TV e guardare le partite. Io avrei dovuto farlo per lavoro, molti altri non l'avrebbero fatto, perché ritengo che sia una buona idea chiudere il circo dopo quanto abbiamo visto ieri, che certo non è stato uno spettacolo. Antonio di Pollina invece, ciao Antonio. Ciao, buonasera. Mi sembra che il tema caldo sia questo, i media, sì, la tragedia, la morte in diretta, lo dico a te certamente. Sì, dillo a me che del calcio ogni domenica mi occupo, diciamo, della sua parte, che davvero quella la più divertente, quella che innesca cortocircuiti appunto divertenti, simpatici, per riportarli in una rubrica, quindi figuriamoci, per quanto mi riguarda, sì, ma al di là di questo, per come è avvenuto tutto, per come è successo, sono quelle classiche situazioni che vengono poi dettate dalle circostanze, da come avvengono, dal momento in cui avvengono e tutto, e lì si prendono delle decisioni. In questo caso avrei davvero voluto vedere la cappa di piombo che avrebbe gravato su tutti quanti se qualcuno si fosse alzato a dire continuiamo così perché bisogna andare avanti, no? E allora che cosa rispondi ad ascoltatori come questi che dicono ci sono ogni anno ci sono 1400 morti sul lavoro eppure non si fermano gli altri e così via, perché questa è l'obiezione di molti. Da rispondere, sì, dovrebbe fermare davvero tutto, dappertutto, in qualunque modo, stare inchiodati a guardare le cose pessime che succedono nella vita e che ognuno ha modo poi di provarle, vederle in prima persona, farsi delle sensibilità personali, stando fermi e non facendo nulla, no, evidentemente no, non sono due cose che si tengono. Esatto. Diverso mi sembra un ambito un po' diverso. Sì, completamente, ma diverso è il discorso di vedere come è successo, appunto, il fatto che fosse in Serie B, non so, vogliamo dire che se fosse successo in Lega Pro con meno telecamere, con più difficoltà a far vedere quanto accaduto e tutto, l'impatto non sarebbe stato lo stesso, ma questo è assolutamente nell'ordine delle cose e di una civiltà dell'immagine, della comunicazione che è fatta in un certo determinato modo. Mi è venuto anche in mente, per esempio, a San Siro ieri, è stato, sì, ci sono state anche chi non ha capito, chi ha protestato, ed era già allo stadio e così via, ma probabilmente è andata molto meglio di quanto sarebbe andata in passato, quando si sarebbe fatto davvero fatica a capire cosa era successo davvero. Ieri probabilmente già di smartphone, di telefonini, di cose e tutto, moltissima gente lì a San Siro, sulle tribune, in gradinate, ha avuto la percezione esatta, delle notizie esatte, magari sul telefonino, di cosa era successo, lo ha comunicato a chi era vicino e tutto quanto, e alla fine anche lì si era stati tutti d'accordo. Come valuti il ruolo giocato dalle televisioni in particolare in questa vicenda? Anche lì un fatto di circostanze, insisto, se fosse successo in una serie minore, senza le dirette, senza esserci due TV nazionali che trasmettevano in diretta l'avvenimento, l'impatto sarebbe stato un altro, ma questo è assolutamente nell'ordine delle cose e sono anni che ci chiediamo cosa fare in questi casi. Quello che è certo è che quando non ci si è fermati, quando si è andati avanti, parlo anche di altri ambiti, dello spettacolo, della TV, dell'intrattenimento leggero, l'impressione è stata sempre brutta, sgradevole, e le polemiche sono state fortissime. A fermarsi davvero e a concedere degli spazi anche per far parlare chi non è d'accordo, anche per far dire a chi non è d'accordo che non lo si doveva fare, non ci si è sbagliati mai più. Non c'è bisogno di correre da nessun punto di vista e non c'è niente che sia davvero clamorosamente indispensabile e che debba andare per forza oltre il momento invece di fermarsi, di rifletterci un attimo, di pensarci un secondo. Sì, c'è una signora che ha prima chiamato dicendo vabbè, però a 24 ore di distanza continuare a rivedere ossessivamente quelle drammatiche immagini, forse in questo c'è un po' di mancanza di rispetto, questo forse non sarebbe così necessario oggi. No, non lo è, non è necessario e bisognerebbe che tutti a 24 ore di distanza appunto agissero per sottrazione più esatto. che per addizione. Aggiungendo cose, sì, anche sì. Perché non capita, stiamo parlando di una faccenda talmente delicata su cui è talmente difficile dire delle cose precise che neanche gli esperti in questione, metti due esperti a fare un dibattito ed è facilissimo che dicano la cosa opposta, cioè per capirci, che dicano si poteva salvare o l'altro dice non si poteva salvare. Ragazzi, non scherziamo, stiamo parlando di una cosa gravemente seria. Poi c'è la questione della macchina che bloccava tutto, e quindi chi è in corso in questa cosa c'ha il problema di capire se si poteva salvare, se non si poteva, cioè fermi davvero, si fa del teatro dello show, meglio è. Dopodiché ho visto che più o meno vanno avanti i dibattiti in maniera un po' condensata. Rai ha fatto un'oretta prima, anche lì ci sono gli spazi da riempire in fondo, e due cose è giusto abbastanza dirle: conta il tono, conta il tenere conto appunto soprattutto di questi tempi, quando non puoi più tenere bloccato niente, neanche volendo, perché tramite internet tutto va dappertutto, esatto, ed è impossibile fermare la vina quando scende. Allora è davvero il caso di appunto più sottrazione. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Di Pollina, critico illustre di Repubblica. Luca Mario Morosini, l'avrete magari già sentito anche nei GER, ha dedicato oggi la vittoria Sara Errani, vittoria nel torneo di Barcellona. Non so se lo abbia fatto anche, perché non ho notizie di questo tipo, Gasparotto, altro grande risultato italiano, sportivo italiano di giornata, Enrico Gasparotto, che ha vinto l'Amstel Gold Race. Ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde. Pasquale da Foggia, grazie per l'attesa. Sì, sicuri, salve, buonasera. No, io avevo da porre un quesito, comunque, ma anche uno spunto di riflessione. Posto che sia molte probabilità che sia stata appunto una tragicità la morte di Morosini, ma siamo sicuri di poter escludere che la sua morte non sia dovuta all'utilizzo di farmaci o di terapie che le squadre generalmente adoperano? Perché questo lo scopriremo, no? Sì, certamente, no, però appunto io ho avuto la fortuna, e con questo chiudo poi magari, ho avuto la fortuna di leggere un libro che è Nel fango di Dio Pallone di Carlo Petrini, che mi ha chiarito tanti aspetti, certamente non in maniera completa, non in maniera esaustiva, però è da un grande spunto di riflessione su quelle che sono anche le pratiche di doping nel calcio già agli anni 70. Sì, e sì. Quindi io mi auguro di no, perché però è anche vero come tutti, però il dubbio che ne viene è quello che è venuto a molti, che può venire a molti, me compreso, insomma, però sono tutte ipotesi, sono tutte illazioni, mi viene voglia di dire, l'autopsia chiarirà tutto quanto. Mi sembrano importanti le parole di Di Natale, che avete sentito credo già nel giornale radio. Il calcio è bello, è uno sport importante, ma c'è anche la salute da salvaguardare, ha detto. Lo sto dicendo da tanto tempo, ne ho parlato spesso anche con i nostri medici. Ho 34 anni e l'anno scorso ho pensato, scherzando ma non troppo, di ritirarmi perché non riesco più a riposare. Queste le parole di Natale. Pasquale, per le illazioni oggi credo non ci sia tempo, per i fatti, per le ragioni, se esistono ragioni, voglio dire, di questo tipo sulla morte di questo ragazzo, lo scopriremo soltanto con l'autopsia e con quello che ci diranno. Non le trovo giuste, non mi piacciono, le trovo anche volgari, se vogliamo, queste relazioni, questi pensieri impuri che capisco possono venire. Daniele da Treviso, salve. Buongiorno a lei. Volevo portare un pensiero così diverso. Sono tra quelli, diciamo, se dobbiamo metterci da una parte, tra quelli che appunto avrebbero preferito onorare la morte di questo ragazzo giocando. E lo dico perché, anche per esperienze dirette personali, avendo avuto la tendenza di alcuni giornalisti a spettacolarizzare un dolore in famiglia, avendo avuto una persona appunto in stato vegetativo. Questo ragazzo, ripeto, essendo un calciatore, crea chiaramente notizia, e c'è una speculazione secondo me del dolore che spesso il mondo dei giornalisti sfrutta, ed è veramente terribile, perché secondo me la morte deve essere un qualcosa di privato, la privacy di una famiglia deve essere mantenuta in questo contesto, questo certamente, Daniele, però per fatalità tragica non è stato possibile ieri, perché c'era comunque una partita in diretta televisiva, e dunque è accaduto questo, questo è quello che abbiamo visto tutti, perché le partite di calcio vengono riprese in diretta televisiva. Sono d'accordo con quanto dice in valore assoluto, però ieri è quello che è successo, dunque oggi giocare mi sarebbe sembrato inopportuno. Ripeto le parole di Pollina di prima, potete immaginare in quale clima, in quale ambito, in quale assenza di voglia, di gioia, di questi elementi che dovrebbero esserci sempre nello sport, si sarebbero disputate le partite di oggi. Meglio non giocare, e ripeto, applauso a chi ha preso in maniera così tempestiva, ma perché era necessario in questo caso la tempestività, questo tipo di decisione. Dino da Padova. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo fare due considerazioni sul tema della tempestività dei soccorsi. Sì. Allora, io è da 50 anni che frequento lo stadio di Padova, sono tifoso del Padova, adesso lo stadio è l'Euganeo, ma prima era l'Appiani. Sì. Ebbene, io ho sempre visto immancabilmente, sia nel vecchio stadio che nel nuovo stadio, un'ambulanza, a parte i medici e gli infermieri in campo, ma c'è sempre l'ambulanza in campo che è pronta ad intervenire per qualsiasi evenienza. E quindi mi chiedo se ci sia anche qui un'Italia a due velocità. Seconda considerazione. Ma ieri l'ambulanza c'era, no? L'ambulanza ieri, Dino. Prego? C'era l'ambulanza ieri. Ma il fatto è che non ha potuto entrare, quindi evidentemente era fuori dallo stadio, o comunque è dovuto arrivare da fuori, presumo, no? Sì, ma non in tutti gli impianti. Ad esempio a San Siro non c'è l'ambulanza sul terreno di gioco, questo per dire. Ogni tipo di impianto ha le sue peculiarità, dunque... Okay. Dica. Ecco, e poi l'altra considerazione che volevo fare è, evidentemente allo stadio di Pescara è l'unico accesso di emergenza, o comunque l'unico accesso carrabile, evidentemente è quello dove l'ambulanza non ha potuto entrare a causa della macchina dei vigili. Però un'ultima considerazione: da quello che ho letto anche sulla stampa, in realtà il fatto che l'ambulanza sia arrivata in ritardo è influente rispetto purtroppo alla tragedia che è accaduta. Perché? Perché se è vero quello che ho letto, l'ambulanza ha sostato parecchi minuti dentro lo stadio in attesa che il povero Morosini venisse rianimato e caricato in ambulanza. Ecco, a me piacerebbe insomma approfondire meglio questi temi. Dino, io ringrazio lei, però è chiaro che questi temi non li posso approfondire io, non posso, non voglio, ma non posso proprio, non sono in grado di dare delle risposte, perché queste risposte non devono certo venire da me, da noi, da voi, ma devono venire dalle indagini che verranno fatte, sia dal punto di vista medico-legale che dal punto di vista giuridico, insomma, delle procedure, compresa il discorso dell'auto che ostruiva il passaggio, eccetera eccetera. Questo dovrà essere chiarito da altri, non certo da noi. Era un ragazzo d'oro, è un fatto terribile che mi fa riflettere sulla vita, insegna ad apprezzarla e a rispettarla, lo ha detto, pensate un po', Mario Balotelli oggi. Dunque, adesso tra poco altri ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde. Però io volevo farvi sentire magari anche qualche voce. Ho parlato prima di Di Natale, che è stato capitano di Morosini, perché come sapete fino a gennaio era in rosa nell'Udinese, poi è stato ceduto in prestito appunto al Livorno, e sono molto belle le parole del capitano dell'Udinese. Un ragazzo eccezionale, un ragazzo pieno di vita, rideva sempre, tutti i problemi che aveva, sempre a disposizione per la squadra, un ragazzo che tutti i giorni che lo vedevo mi dava forza, perché io ho avuto anche la sfortuna di perdere mia mamma 4 anni fa, e lui mi è stato molto vicino, perché è quella che ha passato lui, perciò per me vedere quell'immagine di ieri è stata una cosa, ma non lo so come devo dire, ma è impossibile. Un ricordo fantastico di questo ragazzo, perché è una voglia di vivere, una voglia di arrivare per lui, per la famiglia che non c'era più, per questa sorella che lui andava in campo con questo sorriso, perciò tutto apprezzato a questo ragazzo. Io ho detto subito, non giocava neanche perché secondo me non era giusto, però complimenti alla società dell'Inter, complimenti all'Udinese, tutte le squadre qua a Bedo, lo ringraziamo perché una giornata così è impossibile giocare a calcio. Avevo una voglia di vivere per la sorella, perché la sorella per lui era tutto. Io come capitano ho chiesto a tutti i capitani della Serie A di Serie B di cercare di non abbandonare questa ragazza, perché ci tengo molto, per me Mario è come un fratello, cerchiamo tutti insieme di dare una mano di più di quella che possiamo dare. Secondo me tra le parole più significative sentite in questi giorni, non so, mi sono anche chiesto se, ma Udinese e Inter avevano già deciso di non giocare prima ancora della comunicazione, è venuto tutto nel giro di mezz'ora, però avevano già deciso di non giocare la partita della sera, non so se questo abbia avuto un peso sulla repentina decisione della Federcalcio. Cioè, hanno già comunicato noi in campo non ci andiamo, l'ha chiarito ieri pomeriggio Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, non so se questo abbia avuto comunque un peso nella decisione della Federcalcio di stoppare il pallone. Giuseppe da Bari, buonasera. Ah, buonasera. Vorrei intervenire sull'argomento. Prego. Beh, noi scopriamo un'Italia, qui siamo tutti moralisti, siamo. Perché per me le morti sono tutte uguali. Pensando un po' a tutti gli imprenditori che si stanno ammazzando, e non se ne parla proprio, appena appena un articolo e finisce là. Ma ieri per la verità l'ho sentito. No, ma ieri per la verità l'ho sentito anche diverse volte nel GR, non so se ne parli appena, non so se le morti sono certamente tutte uguali. Sì. E questo però rientra nel moralismo di qui sopra, mi pare, no? Ma ci vorrebbe, secondo me, un dignitoso silenzio. E senza parlare. Perché ci sono morti che passano inosservate. Qui quando si vuole si fa un casino, quando non si vuole non si fa niente. E la gente non fa altro che accodarsi alla maggioranza. Nessuno ragiona con la propria testa. Io in questo momento sto facendo anche io il murale. Però di fronte a una morte, qualsiasi tipo di morte, per me ci vorrebbe solo un dignitoso silenzio. Sì, sono d'accordo, mi unisco al moralismo di cui lei ha fatto, predichiarando l'ampio uso, insomma, mi sembra anche una frase fatta piuttosto banale, le morti sono tutte uguali, questo è evidente, insomma, quanto abbiamo visto ieri per una serie di motivi e in un ambito molto particolare rende questo tipo di fatto così un po' diverso rispetto a non più grave certamente, ma un po' diverso per l'ambito, per i media, per il fatto che stiamo parlando comunque di quello che è un divertimento, di quello che è un gioco, di quello che è in fondo superfluo. Ebbene, rende tutto questo molto particolare, questo ambito molto particolare. Giancarlo, non sto dando giudizi di valore perché sarebbe idiota da parte mia, dico soltanto che è una circostanza e un fatto del tutto particolare. Giancarlo, Cesena, buonasera. Pronto? Pronto? Dica, prego. No, volevo rimanere un momento in ambito, diciamo, etico nel discorso, cioè sul fatto, è giusto annullare, fermare o era giusto continuare a giocare. Sarebbe interessante fare una domanda, io la faccio provocatoriamente per modo di dire a lei direttamente, ma andrebbe fatta ai giocatori o magari anche a chi telefona, a chiunque. Sì. Se all'inizio del campionato tu dovessi sottoscrivere una domanda di questo genere, vorresti che il campionato, che le partite fossero sospese in quel giorno lì, o vorresti che continuassero? Che cosa risponderesti? Io la faccio a te direttamente. Il senso è che se... No, ma io non so rispondere perché non l'ho capita. Mi ripete per favore? Se all'inizio all'inizio dell'attività di questo campionato... Dicono, se un giocatore muore in campo giochiamo o no? È questo, brutalmente? Se chiedessimo a ogni giocatore, vorresti, se ti succedesse questo, che le partite continuassero o che si fermassero? Sarebbe interessante, dicevo, sentire quanti risponderebbero. Ma anche, voglio dire, a livello di pubblica opinione, no, vorrei che continuassero, o quanti invece direbbero o sottoscriverebbero, no, vorrei che si fermasse. Guardi, io le dico la verità, se io fossi un giocatore e all'inizio della stagione qualcuno mi venisse a fare una domanda di quel tipo, si beccherebbe una testata sul naso. Le dico la verità, perché mi sembra una domanda estremamente così fuori luogo, no? Ma se muori vuoi che si giochi oppure no? Cioè, come minimo si becca una testata se uno mi fa una domanda di questo tipo. Stefano D'Alegnano. Buonasera. buonasera. Buonasera. Dunque, io di professione faccio fisioterapista sportivo. Sì. Secondo me dovremmo cambiare un pochettino l'ottica con la quale noi osserviamo e guardiamo questi atleti, nel senso che ci viene in cuore la medicina, nel senso che se esiste la medicina dello sport è perché le persone che sono sottoposte a quei livelli di stress fisici e psichici non sono da considerare delle persone comuni, ma sono da considerare dei veri e propri pazienti, tenendo presente poi che la medicina dello sport nel corso degli anni è decisamente cambiata, mentre all'inizio un attimo Stefano, mi chiarisca il concetto di paziente. Il paziente è quella persona che sta, per determinati motivi che possono essere più svariati, al di fuori della fisiologia. Allora quando una persona finisce una partita di calcio, sì, e ha un dispendio energetico dal punto di vista fisico, psichico, di microtraumi subiti, esce dall'aspetto prettamente fisiologico, no? Sì, sì, ed sì, entra in un aspetto che lo avvicina di più verso un certo tipo di patologia. Cioè, quello che stiamo dicendo noi è che, quanto ho detto io prima, chi va a correre al parco quattro volte alla settimana è una persona sana, chi fa lo sportivo professionista al massimo agonista, livello, oggi agonista, è una persona che sottopone comunque il suo fisico ad uno stress anomalo. Esattamente, tenga presente che in passato la medicina dello sport si occupava più che altro degli aspetti ortopedici specifici dello sport in questione. Adesso si occupa molto di più dell'aspetto, diciamo così, metabolico, cioè di come reagisce il fisico agli stress fisici e psichici che l'attività agonista professionista provoca. Ma questo mi sembra anche evidente, anche perché oggi si gioca in qualunque settore, in qualunque disciplina, ad un livello fisico e mentale molto superiore rispetto a quanto accadeva in passato. Soltanto vent'anni fa il calciatore era grosso modo una persona normale, oggi è un super atleta. Esattamente, pensa, lei volentieri collabora con Andrea Zorzi. Sì. Andrea Zorzi al tempo era un giocatore che giocava i mondiali, finiva una settimana, iniziava il campionato, e c'era la finale di Coppa Italia e c'era la finale del campionato. Cioè, è un giocatore che ad esempio in 5, 6, 10 anni avrà fatto forse 40 giorni di riposo. Uno dice, sì, ma io lavoro in fabbrica, faccio 40 giorni di riposo anch'io. Sì, ma l'impegno fisico che si ha a fare sport ad alto livello, unito all'impegno psicologico, richiede veramente dei tempi di recupero che le attività professionistiche di questi anni non consentono, e ha perfettamente ragione Di Natale quando dice, ragazzi, qui non possiamo andare avanti così. Perché poi i giocatori più bravi sono quelli che giocano sempre, perché arrivano in fondo alla Champions e poi vanno agli europei, sì, e poi inizia il campionato. È anche vero che, Stefano, però è anche vero che negli ultimi anni, in questa settimana disgraziata ne abbiamo avuto un esempio, è anche vero che in questi anni le carriere si sono allungate e notevolmente, nonostante, mi vengono in mente Totti e Del Piero, nonostante traumi e infortuni molto gravi che in passato avrebbero stroncato la carriera di un giocatore, quindi abbiamo maggiore longevità agonistica. Sì, e questo è grazie proprio alla medicina sportiva e alle metodologie di allenamento che hanno portato a dei livelli spaziali la gestione dell'atleta. Però stiamo parlando di Totti e Del Piero, che sono forse dei numeri ancora bassi per poter dire che la carriera si sono effettivamente allungate. Beh, insomma, se ne possono fare molti altri di esempi anche fuori dal calcio e anche fuori dall'Italia. Voglio dire, non sono solo Totti e Del Piero, sono i primi due che sono quelli della cronaca, però. Sì, certo. Se impariamo anche da Del Piero, nel senso che Del Piero ha uno staff di persone che gestisce il suo fisico in maniera assolutamente personalizzata ed assolutamente particolare, che forse esce un pochettino dall'aspetto della preparazione generale che fa una squadra. La mia paura è che si entri in un circuito che poi diventa difficile fermare, nel senso, che se si continua a giocare così tanto con questi ritmi, adesso stiamo parlando del calcio, sì, ma sì, non pensi, no, che ma possiamo, ma no, ma possiamo parlare anche di molti altri sport. Ad esempio, mi viene in mente sempre la pallacanestro americana, dove si gioca una volta in due giorni, in particolare in questa stagione, praticamente tutti i giorni, ad un ritmo forsennato e partite di un'intensità fisica spaventosa. Sandro da, grazie Stefano. Sandro da Rovigo. Intanto buongiorno, complimenti a lei, perché io seguo spesso e volentieri per orari di lavoro Garanzini, ma lei lo sta sostituendo magnificamente. Dopodiché, siccome non seguo tanto il moto mondiale, non ricordo se quando è morto Simoncelli hanno proseguito la gara oppure no. No, si fermò la gara. Ecco, allora complimenti anche all'organizzazione che... Sì, in quel caso la gara si fermò immediatamente e non riprese più. Sergio da Milano, poi ci fermiamo. Sergio, buonasera. Buonasera, gente. Senta, io volevo dire una cosa sulla questione ambulanza. È molto grave che l'ambulanza non è riuscita a entrare, poi tra l'altro c'era una macchina dei vigili. Ma volevo dire che le attrezzature... Grave lo è, determinante non lo so. Perché grave certamente, perché il passaggio per l'ambulanza deve essere libero, deve essere sgombro, a prescindere. Sì, però guardi, io ho fatto 17 anni di vigile del fuoco. E quando va a finire in una macchina dentro una scarpata, non è che devi andare con l'autopompa dentro la scarpata. Ci sono le attrezzature che sono barellabili, ci sono i defibrillatori che sono spalleggiabili, che si possono portare sul posto, sì. Quindi se faceva fatica a entrare, sicuramente qualcuno avrebbe potuto portarle sul posto, c'erano lì 200 persone in 30 secondi, ecco, perché non è che dall'ingresso allo stadio ci siano chilometri. No, quello certo che trovo grave è questo atteggiamento classico proprio anche dei funzionari, anche delle forze di polizia, che quando non serve accendono il lampeggiante per passare il semaforo, oppure si mettono davanti perché loro lo possono fare. Ecco, questo malcostume da combattere. E poi sì, per quanto riguarda i soccorsi, penso che quelli ambulanza così non potevano fare. Sì, lo penso anch'io, probabilmente nessuno poteva fare più di questo. Certamente il passaggio doveva essere libero, quanto ai lampeggianti mi sembra un'altra storia, un altro discorso, un altro tema. Che ragazzi, in giorni come questo, che pure sono i più difficili, mi capita di leggere una quantità di sciocchezze sui messaggi SMS che non potete nemmeno immaginare, non tutti naturalmente, 800 24 0024 per il numero verde che preferisco, messaggi se volete, ma cose serie, 349 238 6666. Intanto dalle agenzie apprendo che naturalmente serve una tragedia pazzesca come quella che è successa ieri perché gli steward di Pescara invitino chi posteggia l'auto in quel punto dell'ingresso a non farlo più. Insomma, vi leggo l'agenzia. Fonti interne del Pescara Calcio riferiscono che nessuno steward avrebbe espressamente detto agli agenti della polizia municipale di non posteggiare l'auto in quel punto nell'ingresso della maratona, dove già altre volte sarebbe accaduto di vedere a parcheggiare le auto appartenenti a denti e corpi diversi, a volte in modo non corretto. Dunque serve che lo steward vada a dire a quelli di non parcheggiare dove non dovrebbero, perché potrebbe dover entrare un'ambulanza. Serve che accada questo, no? Andrea, Venezia, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io ho una domanda da porre, sono un medico. Sì. E vorrei chiedere perché in nome di uno sport un giocatore, quindi un essere umano, deve essere trasformato in una macchina che quella struttura non riesce più a reggere. Solamente in nome, non so se dell'aspetto economico. Cioè, parlando, Andrea, mi perdoni, stiamo parlando in generale, non del caso di specie, immagino. Sì, sì, in generale. Io ho visto molti giocatori che nell'arco di una carriera devono subire N interventi perché oramai sono una struttura che non è più quella originaria. Questa è la domanda? Sì, questa è la domanda. Andrea, questa è una domanda troppo difficile. Questa è una domanda davvero troppo difficile. E questa è una domanda cui non si può trovare una risposta. C'è da dire che ci sono, e lei lo saprà meglio di me, persone particolarmente dotate dal punto di vista fisico. Esiste un talento fisico che in molti casi fa la differenza. lo sport di oggi è estremo dal punto di vista delle prestazioni fisiche richieste, è estremo dal punto di vista dei calendari. D'altra parte sono estreme molto spesso anche le condizioni in cui viviamo normalmente, cioè tutto è estremizzato. Vedere una partita di calcio oggi da bordo campo è qualcosa che fa impressione, perché sembra una partita di football americano senza le protezioni. Lei mi dice in nome di che cosa? Io non le so rispondere, questa è una domanda veramente molto difficile. Quello che posso dire è che, quanto ho detto prima, un giocatore di calcio 20 anni fa era grosso modo una persona normale, era un atleta normale. Oggi invece è un super atleta, cioè è una persona che si allena con metodologie diverse, che si sottopone a un diverso tipo di lavoro fisico proprio per queste ragioni, si alimenta e si cura in maniera diversa. Oggi c'è stata una grande evoluzione della scienza medico-sportiva da questo punto di vista, proprio perché l'asticella si è alzata a dismisura. Ma questo accade in tutti gli sport, non solo nel calcio. Se sentite le chiacchierate che faccio con Andrea Zorzi, ogni sabato, Andrea Zorzi non ha 100 anni, non si è ritirato 30 anni fa, dice oggi saltano e tirano a dei livelli e tirano con la palla con una violenza che ai miei tempi era impensabile. Evoluzione della specie sportiva, diciamo questo. Ma alla domanda di fondo che lei fa io non riesco a rispondere. Claudio da Catania, buonasera. Claudio da Catania non mi sente. 800 24 00 24 è il numero verde. A proposito di messaggi, giocano tanto e sono stanchi, ma è anche vero che quando il mister li mette in panca sono i primi a lamentarsi, scrive Leonardo da Ravenna. Sì, perché star fuori non piace a nessuno. È anche vero, per rispondere all'ascoltatore di prima che diceva e adesso hanno una settimana in più per riposarsi, non è vero, perché invece ci sarà una serie di impegni ancora più ravvicinati, no? Come sapete, la giornata che si doveva giocare oggi è slitta domenica prossima, c'è un turno infrasettimanale in più non previsto che si giocherà il 25 aprile, ovviamente a domenica successiva siamo a fine campionato, dove la stanchezza è maggiore, dove lo stress è maggiore, dove i risultati contano di più, eccetera, eccetera, eccetera. Dalla Spagna, Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Dalle nostre parti è minuto di silenzio prolungato, come ben saprai, sì, però sì, anche in Spagna. Sì, insomma, è stato per me è la prima volta che vedo una manifestazione di questo tipo. Insomma, minuti di silenzio, lutto al braccio. Insomma, di solito i campionati sono abbastanza a compartimenti stagni, a meno che non ci siano delle ragioni, che è morto un ex compagno di squadra, che ora gioca da un'altra parte. Per me è la prima volta che capita un fenomeno tanto forte. Guarda, no? In Italia ti ricorderai, il calcio si era generalizzato. Sì, ti è piaciuto? Sì, sì, sì, no, ma anche a me. In Italia il calcio si era fermato in tre occasioni in passato per la morte di Spagnolo, tifoso del Genoa. Ma la reazione qui in Spagna. Ah. Insomma, vedere Barcellona e Levante con lutto al braccio per la morte di un giocatore italiano. Sì. Non era così scontato. Sì, Filippo, in Spagna come hanno reagito alla decisione di non giocare questa giornata del campionato italiano? Ma l'hanno rispettata, non se ne è parlato molto. Insomma, su questo gli spagnoli sono abbastanza, come si può dire, lineari. Cioè, l'Italia ha deciso così, va bene, basta. Cioè, è una decisione che abbiamo preso noi, non è che loro, figurati, non si permetterebbero mai di dire. È giusto di commentarla. È giusto e basta, insomma, e ognuno fa ciò che crede, ma comunque è stata apprezzata, insomma, ecco, e si è visto proprio dalla risposta della Liga Spagnola, cioè il fatto che poi dopo, no, ci siano stati questi, no, il minuto di silenzio, il lutto al braccio, è come un po' un avallare anche proprio la decisione di fermarsi da parte della Federazione Italiana, secondo me, insomma, è stato preso in maniera molto seria, perché il problema è che i casi cominciano ad aumentare in maniera preoccupante. Sì, soprattutto hanno una cadenza temporale ossessiva in questo periodo, soprattutto qui in Italia, però non possiamo dimenticare quanto è successo in Inghilterra, quel miracolo che è successo in Inghilterra, perché di questo si tratta. Tre settimane fa, no? Sì, di Muamba. Sì, e poi appunto la pallavolo, ieri è morta quest'altra ragazza della pallavolo, una, no? Che una venezuelana che aveva giocato a Modena, e poi vabbè, tutto questo, poi c'è un altro discorso che magari, cioè, che si può affrontare, è che il fatto che c'è tanta gente, comuni mortali come possiamo essere io e te, che muoiono giocando a calcetto a una cadenza mostruosa, mostruosa. Questo, non so se a volte poi si finisce con un trafiletto in cronaca locale, ma io ho dato un po' un'occhiata, ci sono 30-40 morti l'anno, No, questo sì. Insomma, allora uno si interroga cosa si può fare, la questione dei defibrillatori, magari da mettere anche nei circoli più piccoli, cioè in giro sparsi per l'Italia. Sì, no, la prima regola comunque sarebbe quella di preservare la propria salute per noi comuni mortali che andiamo a giocare a calcetto, quindi quando ti dicono la visita sportiva è meglio farla, vai, la fai, e deve essere qualcosa di serio. Comunque noi siamo messi bene in questo senso, nel senso che io appunto ho girato e giocato a livello amatoriale, no, in Inghilterra, in Spagna, noi abbiamo dei controlli che non ha nessun altro. Insomma, noi cresciamo, in Italia sono uno scarpone, sono arrivato fino alla seconda categoria, però sempre molto controllato, cioè molto controllato, sempre controllato molto più della media europea. Certo, questo si è detto. I protocolli di controllo italiani sono presi ad esempio a livello internazionale. Siamo passati da Renato Curi dagli anni 70, siamo arrivati fino adesso, no? Certo. Con un episodio del genere non è un caso. Che io poi me ne sono occupato tanto, perché col fatto del calcio africano è una cosa che io ho sempre seguito, ma noi abbiamo fermato giocatori che in altri paesi giocavano, sì. Canu, Fadiga, poi adesso ci sono casi meno famosi di Goriani che sono arrivati e poi sono andati a giocare da un'altra parte senza l'idoneità, cioè che da noi non avevano ricevuto l'idoneità, sì. E non lo so, Marc Vivien Foé in Italia non avrebbe mai giocato, ricevuto l'idoneità. Certo. Però perché lui aveva un problema, quello che si dice il cuore grosso degli africani, in generale dell'atleta nero, che in Italia, diciamo, se viene riscontrato l'idoneità non te la danno, da altre parti te la danno. Certamente. A Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Spagna, volevo chiedere anche se dopo il caso di Puerta di qualche anno fa è cambiato qualcosa, poco, molto, a livello di sicurezza negli stadi spagnoli. No, è cambiato, a parte che poi dopo c'è stato subito anche il caso Harke, che poi è morto in Italia, in albergo, a Coverciano, però insomma, no, è abbastanza colpito ovviamente molto, no, l'immaginario popolare. Sì, è cambiato qualcosa a livello di controlli, di prevenzione, poi c'è stato il caso di De La Red, che si è salvato per un pelo, l'ex giocatore del Real Madrid, e per esempio Sergio Sanchez, quando è stato fermato appena in tempo, quindi c'è stato un aumento dei controlli. Perché però? Perché il caso Puerta è, di nuovo, è difficile dirlo, no, può sembrare quasi opportunistico dirlo, però Puerta si era sentito male un sacco di volte, probabilmente qualcosa è stato trascurato, cioè lui quando muore dice ancora una volta il giramento di testa, insomma, se un calciatore ha il giramento di testa vanno fatti ovviamente dei controlli accuratissimi, quindi probabilmente la Spagna in questo era un pochino più indietro di noi, adesso c'è stata una sensibilizzazione molto molto forte, perché insomma, ecco, quello è stato un caso. Sì, diciamo che c'è un prima e un dopo, no? Esatto. Rispetto al caso Puerta. Invece sul campo, perché in Spagna c'è stato anche quello, è un preclassico che si gioca la settimana prossima, interessante. Se avessero dato dalle nostre parti un rigore come quello del Barça? Sì, cioè, c'è una cosa per me incredibile, che ieri hanno sofferto sia il Real Madrid che il Barça. Il Barça uno poteva aspettarselo, perché il Levante, che era partito come un miracolo, è rimasto un enorme miracolo, sono ancora lì al quinto posto, se la cavano molto brillantemente e continuano a giocare bene. Però lo Sporting, che è una squadra che aveva 53 punti o 54 punti meno del Real Madrid, ieri veramente li ha fatti sudare al Bernabeu, e questo per me è interessante. E poi ci sono quei due giocatori, che sono Ronaldo e Messi, che sono in una forma assurda, sono arrivati a 41 gol a testa, e veramente a me piace perché risolvono le partite. Sì, ieri sera, e già per esempio anche Ronaldo già nel derby la settimana scorsa, hanno risolto loro le partite. Messi va a segno da 10 turni di Liga consecutivi, insomma, come dire, ci pensiamo noi. Ed è un bel vedere per me, insomma, al di là di tutto quello che poi ci possono essere polemiche o no, è un bel vedere, sono veramente due giocatori fenomenali, due grandissime squadre. E ok, la Liga è spezzata, ma questo lo sapevamo già dall'estate, certo. Resta un duello assolutamente stellare, e sabato c'è di nuovo la madre di tutte le partite, cioè la madre, il padre, lo zio di tutte le partite, esatto, in mezzo al turno di Champions. Bravo. E questo volevo arrivare a chiederti per concludere, ma in Spagna è come dalle nostre parti, lasciamo stare i fatti contingenti. In Spagna esiste questa continua polemica sui calendari intasati, che si gioca troppo e che si dovrebbe giocare di meno, eccetera, eccetera? No, non tanto. Per esempio, cioè, Mourinho insiste molto sull'attenzione alle partite a quando si gioca. Lui portava sempre, ad esempio, sia l'Italia che il Portogallo, dove si poteva arrivare a giocare il venerdì, se avevi l'appuntamento in Champions, sì, dove diciamo la Lega locale interessava il calendario e così. Non ha fatto notare che arriverà al classico, dopo il classico, sempre con un giorno di vantaggio, perché il Real Madrid gioca martedì, il Barcellona mercoledì e poi dopo diciamo anche nel turno successivo. Però detto questo, no, e qui viene, voglio dire, si sa, si gioca troppo, appunto. Cioè, non so come dire, non c'è, però non c'è questa polemica di fondo, non esiste. No, c'è poco da fare, perché comunque si sa che intanto poi qua, attenzione, qua vengono prese molto sul serio anche competizioni come l'Europa League, certo, mentre da noi viene snobbata, che l'abbiamo parlato tante volte, non si capisce bene perché, però la snobbiamo, quindi questi hanno tre squadre in semifinale su quattro e la prendono seriamente. Cioè, non so, il Valencia oggi ha fatto riposare Soldado per farlo giocare in Europa League, perché voglio dire, quello è un trofeo che ti puoi vincere, e quindi il calendario intasato, tra virgolette, ben venga. Perché comunque si gioca, l'Athletic Bilbao, Bielsa sta spremendo i suoi, perché non ha pochissimi giocatori, però non importa, insomma, bisogna, sì, quindi non esiste questa polemica strisciante, che comunque da noi ripeto, al di là dei fatti di questi giorni, torna fuori con grande frequenza sul numero delle partite. Grazie Filippo, alla prossima, ciao, ci sentiamo. Prossima, la prossima sarà interessante dopo il classico. Per chiudere, Davide da Brescia e Giacomo da Firenze, abbiamo ancora due minuti. Davide. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire sempre sul discorso, mi è venuto in mente un aneddoto dell'anno scorso, quando ho partecipato alla maratona di Barcellona. Sì. Molto bella, fatta molto bene. Peccato che quando ho presentato il mio certificato, io sono un dilettante, sì, un maratoneta dilettante, ho presentato il mio certificato medico agonistico alla maratona, alla direzione maratona, questi mi hanno chiesto: e cosa è questo? Come ho detto, cosa è un certificato per poter correre qualsiasi corsa in Italia, è normale. Sì. E loro mi hanno detto che in Spagna vai lì, metti la pettorina e corri. Esatto, e per correre una maratona le garantisco che anche per un dilettante è qualcosa di no, ma certo. No, ma questo aggiunge una testimonianza importante al fatto che dalle nostre parti siamo molto attenti a questo aspetto, a questo tipo di problemi, giustamente. Giacomo da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. Appunto anch'io volevo intervenire sul caso del povero Morosino. Sì. Al di là dell'aspetto umano, che ovviamente è toccante per la storia familiare, eccetera, eccetera, di questo ragazzo, chiaramente scuote tutti. Quello a me è molto dispiaciuto, anche sentendo la trasmissione, cioè le persone che sono intervenute, non ultimo l'ascoltatore mi ha preceduto, tutta la rincorsa tipica italiana che si fa: ah, i controlli non sono sufficienti e qui e là. Poi si dice: ma in Italia abbiamo controlli migliori del mondo. Io credo che sia autolesionista questo tipo di atteggiamento nei confronti, perché anch'io faccio sport a livello dilettantissimo, mi hanno fatto l'elettrocardiogramma, mi hanno fatto le analisi eccetera eccetera, cioè voglio dire, non si può semplicemente essere profondamente toccati per questa persona e dire che poveraccio è stato sfortunato, cioè questa è la mia domanda, cioè nel senso che... No, ma la sua domanda, Giacomo, non ha una risposta, anche perché questa risposta non può venire da qui, ma verrà da chi svolgerà le opportune indagini medico-legali e di altro tipo. Quello che diciamo, e questo è corretto e questo è inconfutabile, lo testimonia anche l'ascoltatore di prima, che dalle nostre parti, quando si fa sport, i controlli esistono e sono seri. Ragazzi, ci sentiamo alle 8:30 per parlare di basket dopo questa domenica molto strana e molto difficile. Giorgio Drucchi in redazione, Paolo Corleoni in regia. Più tardi.